Per quanto riguarda le occupazioni, ci occuperemo di un'occupazione come lo stesso metodo che abbiamo affrontato con tutte le altre. Questo non significa che il tema della casa non sia una questione assolutamente all'ordine del giorno per noi. Su questo la vice sindaca Emily Clancy si sta lavorando bene in modo importante. Abbiamo messo in campo in questo primo anno misure e risorse inedite nella storia della città. Occorre però che il prossimo governo e il prossimo Parlamento prendano sul serio la questione abitativa nelle grandi città, perché quello che si segnala a Bologna, in particolare verso gli studenti, c'è nelle grandi città italiane. Serve un piano nazionale di investimenti sulla casa per le famiglie e per gli studenti nelle città universitarie. Il Partito Democratico in questa campagna elettorale ha proposto un piano casa da 500.000 nuovi alloggi popolari. Credo che questa proposta assolutamente vada presa in considerazione. Ho detto anche intervenendo in questi giorni, se bisogna fare una delle battaglie del Partito Democratico e della sinistra in Parlamento appena ci si insedia, il tema della casa. Quindi in questo momento dobbiamo dare delle risposte, ma allo stesso tempo essere franchi e non ipocriti, serve un piano nazionale. No, veramente noi prima di tutto chiediamo alle persone di uscire, poi dopo si vedrà.